Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Abbiamo il grande piacere di avere con noi Alberto Guidetti, Bebo, dello Stato Sociale. Ciao Alberto, come stai? Ciao Olga, ciao a tutti. Tutto bene, grazie. Il 5 maggio è uscito il vostro ultimo album, Stupido Sexy Futuro. Io sono rimasta colpita perché lo avete definito un disco politico. Come mai? Lo è perché siamo andati a lavorare su quello che ci circonda, come un po' il nostro classico, diciamo, abbandonando comunque quelle forme che alle volte possono sembrare di ammorbidimento, no? Per andare un po' incontro a un gusto più largo e quindi dicendo le cose in maniera un po' più diretta invece, che non vuol dire appunto trascurare la qualità della musica, anzi altro, un lavoro che abbiamo curato davvero per tanto tempo, ma abbiamo cercato appunto di entrare il più possibile in maniera chirurgica sulle cose che volevamo dire, sui temi che sono anche di stringente attualità. A proposito anche dei featuring, ho visto che l'avete anche presentati come delle collaborazioni nate spontaneamente. Sì, guarda, il punto è che ovviamente per come funziona la discografia distribuita digitalmente, riempire i dischi di featuring è una mossa che ha a che fare anche con il raggiungimento di certi numeri da piattaforme, cosa che non ci interessa, come dire, al primo posto delle nostre passioni. Quindi, avendo bisogno di alcuni featuring per necessità artistiche sui brani, non sono state cose forzate, ci siamo affidati a persone che o conoscevamo di prima mano o di cui ci si poteva affidare anche solo dopo un caffè. Tu fuori dai microfoni mi hai detto che sei a un battesimo e quindi ti sparo due domandine proprio leggere. Secondo te, cos'ha da dare la musica italiana di oggi in un ipotetico confronto con l'attuale scena politica, proprio in ragione del fatto che voi avete definito il vostro disco politico? C'è da dare tutto quello che c'è da dare, non bisogna tirarsi indietro, anzi, meglio fare un passettino in avanti, se non un e mezzo o due passi, proprio perché alle volte quello che succede quando fai questo mestiere, ma anche noi, figurati, se no non riuscirei ad avere questa lucidità, è che credi che basti fare il tuo, cioè ho fatto il brano, sono andato sul palco, ho detto delle cose. È vero, questo è sicuramente dal punto di vista sindacale il nostro mestiere, è anche vero che bisogna andarsi un po' ad appropriare del dibattito pubblico, metterci l'impegno che sia di faccia, di parole, di presenza, di sostegno alle realtà anche territoriali che si muovono su tanti temi sociali e civili, e quindi io credo che il ruolo dell'artista non si fermi appunto a quello che prescrive il contratto, ma anzi abbia a che fare ancora di più oggi nel 2023 con questo governo, con quello che sono anche dei caratteri umani e cosa c'è di più politico che l'umanità, e quindi bisogna buttarci. Molto bella la frase che hai detto, cosa c'è di più politico dell'umanità, ce la segniamo e la riascoltiamo in loop perché va tenuta in mente. Adesso è giunto il momento della domanda strappalacrime, come ogni buona intervista che si rispetti, perché volevo chiederti, vi siete allontanati come Stato Sociale per un momento, ognuno si è preso del tempo per sé e poi siete tornati con un disco. Cosa vuol dire veramente ricominciare con le stesse persone con cui si condivide da sempre una carriera? Non c'è una frase che riassume bene cosa significa attraversare 20 anni della propria vita gomito a gomito con le stesse persone, perché poi la band esiste dal 2009, ma tra di noi appunto ci si conosce dalle superiori, quindi davvero poco più di 20 anni in alcuni casi. È stato complicatissimo, oggettivamente complicatissimo, però è stato anche necessario a un certo momento, proprio perché c'è una scorta di affetto che va al di là delle cose belle fatte come band, come musicisti, e quindi quando senti appunto il raffreddarsi di certi rapporti, pensi, bello tutto quello che abbiamo combinato insieme, ma dov'è che siamo umanamente appunto come 5 persone? E quindi tornare un po' a mettere da parte il lavoro, uscire per uscire, non parlare del disco, non parlare dell'evento, non parlare del casting, non parlare di questo, di quell'altro, ma appunto di cosa si parlava quando eravamo cinni? Parli di politica, parli delle relazioni, parli di sport, fai le chiacchiere da bar, no? Da amici. Ed è stato quello, cioè appunto riappropriarci di noi stessi come 5 persone che davvero hanno a cuore lo stare insieme, e noi l'abbiamo sempre detto, insomma, quando smettiamo di divertirci smettiamo anche di fare la band. Per un attimo abbiamo smesso di divertirci e quindi abbiamo anche detto ok, la band la mettiamo un attimo da parte nei nostri pensieri e occupiamoci di noi, e così abbiamo provato a fare. Non era scontato che andasse tutto per il meglio, come poi fortunatamente sta ancora succedendo. È stato duro, però siamo poi anche contenti, facciamo anche un disco adesso che siamo contenti di stare di nuovo insieme. Quest'estate partirete per un tour pressoché gratuito per essere in questo modo accessibili a tutti. E in questo momento più che mai l'ho trovato una cosa necessaria. Intanto volevo chiederti come è stato possibile organizzare questa cosa. Allora, in realtà è un po' una piccola grande tradizione della band, soprattutto sugli estivi, che insomma ci permettono di lavorare con le istituzioni o comunque attraverso promoter locali che fortunatamente ancora hanno accesso ai fondi pubblici, avendo poi conoscenza di come funziona il nostro mestiere, non solo per quello che riguarda appunto attaccare gli strumenti, ma anche per come si producono le date. Sappiamo anche che avere un cachet che permette di parlare a promoter che sono o istituzionali o comunque attraverso bandi pubblici ti dà poi la possibilità appunto di sedere sui palchi delle piazze. Se costi tantissimo, sai, i soldi sono pochi. Se però costi una cosa ragionevole, non hai bisogno di comprarti il Porsche, noi non abbiamo bisogno di comprarci il Porsche oggettivamente, è anche possibile costruire un bel tour di 20-25 date. Noi abbiamo annunciato le prime, ma saranno appunto più di 20, a titolo gratuito. Insomma, noi abbiamo detto al massimo prezzi popolari. Ecco, per il momento, spoiler, non si paga neanche un biglietto. Speriamo di concludere al 100% così, non è detto, però insomma ci teniamo, ci impegniamo a lavorare in quel verso, esattamente come poi abbiamo cercato di fare un tour nei club a un prezzo sotto mercato, insomma 20 euro compreso il diritto di preventa. In questo momento per una band come lo Stato Sociale è stare sotto il mercato, noi l'abbiamo fatto, ci siamo stati dentro, anzi siamo stati bravini a gestirci le economie, e quindi insomma non c'è bisogno di essere avidi fino alla fine, che poi finisci all'inferno, che sicuramente è una bella compagnia. Invece, a proposito delle date che avete annunciato, io non vedo Bologna, quindi quando tornate a casa? Domanda importante. È difficile a dirsi, noi siamo poi anche quel tipo di band che suona volentieri in città, ma lo fa centellinandosi, e penso anche che sia giusto. Insomma, noi vorremmo fare qualcosa di speciale sulla città ogni volta che ci torniamo, e quindi abbiamo dei pensieri, stiamo facendo dei ragionamenti che chissà andranno in porto oppure no. È sempre molto complesso dirlo in maniera così distante dall'eventualità. E poi dall'altro lato, appunto, Bologna si inserisce in un contesto di circuitazione musicale molto attivo, per fortuna, grazie ai club che ci sono in città, e quindi alle volte il pensiero fai su questo verso, dicevo che okay, a Bologna c'è già tanta roba e ci sono territori anche più lontani o di provincia in cui non succede veramente mai un cazzo di niente. Quando ti chiamano a suonare alla provincia di Vaffanculonia dici volentieri, quando devi suonare per la 200ª volta a Bologna lo vuoi fare veramente con le paillette, i lustrini e i cannoni, nel senso di quelli pieni di coriandoli. E quindi insomma stiamo facendo delle valutazioni, non sappiamo quando, ma sicuramente succederà. Allora noi vi aspettiamo e ti ringrazio ancora Alberto per la bellissima chiacchierata e per averci tenuto compagnia. In bocca al lupo per l'inizio del tour. Viva, dai, dita incrociate. Ciao Alberto, grazie. Un abbraccio, ciao.